Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Vi ricordo alcune informazioni di servizio. La prima è il nostro sito radio24.it, dal quale potrete scaricare tutte le puntate di tutte le trasmissioni. Sotto il mio profilo potete trovare anche il blog, che ritrovate anche sull'homepage del Sole 24 Ore, si chiama Guardie o Ladri. L'ultima informazione di servizio è quella che riguarda la nostra mail, unabusoalgiorno@radio24.it, mail che è stata raggiunta da un nostro radioascoltatore della provincia di Milano, che fa presente un caso molto interessante. Ci troviamo nell'ambito dei lavori edili e di ingegneria civile, ma accanto a questo ci troviamo nell'ambito di alcune informazioni, notifiche, insomma comunicazioni che devono avvenire non più come sacrosanto dovere oggi nell'era della telematica attraverso lettere, comunque in via cartacea, ma debbono avvenire in via telematica. E questa è un'opportunità che viene data dalla legge e dal testo unico sulla sicurezza sui cantieri. Allora, questo che è un diritto e un dovere sacrosanto, quello di colloquiare nell'era della telematica via mail, comunque non per carte o pizzini, diventa in Lombardia per alcuni professionisti una invece difficoltà che poi ricade sui clienti, quindi sui cittadini. Allora, per capire bene in quale contesto ci troviamo, noi abbiamo con noi a parlare il geometra della provincia di Milano che ci ha sollevato il caso, Luca Massignan. Buongiorno Massignan. Sì, buongiorno dottore. E abbiamo Luigi Macchi, il dottor Macchi, che è il responsabile dell'unità di prevenzione della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia. Buongiorno Macchi. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. E poi, buongiorno al geometra Massignan. E poi vedremo perché c'entra la Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia. Massignan, allora, ci spieghi qual è il caso che lei sottopone. Sì, dunque, allora, nell'ambito del testo unico sulla sicurezza dei lavori, il decreto legislativo 81 del 2008, quando viene aperto un cantiere soggetto a lavori di ingegneria civile, per legge è previsto che il committente invii una notifica preliminare alla Direzione Provinciale del Lavoro e all'ADL per segnalare l'inizio dei lavori e tutta una serie di informazioni relative appunto alla sicurezza del cantiere. E questo lo trovo sacrosanto. Ed è oltretutto una questione che è in vigore già dal 1996, quindi è una diversi anni che è una prassi. Esatto. Ora accade questo, che in Lombardia però voi... In Lombardia dal 1 gennaio di quest'anno l'unico modo per un cittadino della regione Lombardia è quello di fare questa comunicazione per via telematica, ma non con una mail, ma utilizzando la carta regionale dei servizi attraverso un lettore di carta regionale dei servizi che chiaramente deve essere installato, messo in rete su un computer con modem e quant'altro. Ecco, questo lettore deve essere messo, come dire, dai professionisti, giusto? No. L'obbligo, stando al testo unico, è rivolto al committente dei lavori, quindi a chi apre un cantiere, potrebbe essere anche una vicina di casa, cioè qualunque cittadino. Quindi potrebbe essere l'impresa, potrebbe essere invece un qualunque cittadino che per dare questa comunicazione deve usare questa smart card, che però richiede il proprio lettore di carta, giusto? Esatto, la questione è questi termini. Ora, il problema qual è? Che sempre stando al testo unico della sicurezza, all'articolo 54 si enuncia che le comunicazioni e la trasmissione delle documentazioni possono essere avvenire per via telematica sui sistemi informatizzati. Però questo possono è stato tradotto con un devono da parte delle ASL di Milano. E questo, a mio parere, è un abuso. Allora, questo possono è stato tradotto in un devono, ma mi corregga ancora una volta se sbaglio, perché questo è fondamentale, è stato tradotto con l'obbligo, diciamo così, di comunicare attraverso questa smart card, che però richiede un lettore, giusto? Esattamente. Benissimo, lei il lettore ce l'ha, Massignan? No, nel mio caso specifico non ce l'ho, però devo essere sincero, sono un professionista, vengo incontro ai miei clienti, ma in ogni caso non avendo io un cantiere da dover aprire in prima persona, il problema non me lo pongo. Ecco, oggi. Quindi dovrebbe porselo l'impresa committente o dovrebbe porselo qualsiasi cittadino benissimo. Lombardo che deve fare dei lavori soggetti all'allegato 10, che sono quelli di ingegneria civile previsti. Benissimo. Allora il caso è chiarissimo, devo dire molto molto intricante, perché riguarda la Lombardia, quindi un bacino d'utenza enorme, e forse potrebbe riguardare anche altre regioni. Anzi, se qualcuno in altre regioni italiane fosse interessato, per piacere ce lo comunichi. Allora, dottor Macchi, il caso mi sembra chiaro, vediamo che lettura ne dà la regione Lombardia. Benissimo. Allora, innanzitutto va detto, per questione di trasparenza e di correttezza, che il geometra Massignan Luca pone questo problema alla regione Lombardia in data 8 febbraio e tre giorni dopo gli viene dato un riscontro. Il signor Massignan ritiene, giustamente, come meglio crede, di richiedere un nuovo parere, lo richiede il 5 marzo e dà una risposta l'11 di marzo. Come bene ha introdotto, tutto il tema rientra nei processi di semplificazione amministrativa, nel senso che finora, come bene ha detto Massignan, la notifica preliminare avviene dal 1996 su formato cartaceo, attraverso la raccomandata che viene data sia alla Direzione Provinciale del Lavoro che all'ASL. La logica è di togliere dunque il cartaceo e di favorire, stante la tecnologia oggi a disposizione, l'invio in via telematica. Credo che su questo ci sia un ampio consenso da parte di tutti e ritengo forse anche da parte del geometra Massignano. Ecco, io posso dirle che io sono il primo che è d'accordo su quanto le sta dicendo, sono il primo a congratularmi con le vostre tempestive risposte date in duplice occasione al geometra Massignano, il che vuol dire che la regione Lombardia, quantomeno la sua unità, risponde celermente, però il problema rimane, perché se la telematica invece che semplificare complica, così come sta denunciando Massignan, tutte queste parole che ci siamo dette non servono assolutamente a nulla. Allora lei, Macchi, ci convinca del fatto che invece la telematica aiuta in questo caso. Certo, allora, noi abbiamo detto che era l'aspetto preliminare a cui tenevo molto era questo. Dopodiché l'articolo 54, bene citato da Massignan, dice anche, certo che possono, ma dice anche che le modalità di invio sono indicate dalle strutture riceventi e dunque, in questo caso, da Regione Lombardia attraverso le ASL e dalla Direzione Regionale del Lavoro. E mi scusi, quindi le modalità che voi avete scelto, così esatto, vediamo. Arrivo. Ecco, è stata quella di avere questo lettore, questa smart card. No, non è così. Ecco, prego. Allora, aspetti, mi dia, prego. Poi dopo può dirmi che è d'accordo. No. Sto accelerando soltanto perché il tempo scorre. Ho capito. Allora, noi abbiamo fatto un decreto in cui abbiamo tradotto questa cosa qui con disporre di utilizzare un sistema informatizzato. Non si parla mai di mascard nel decreto, ma si parla sempre di sistema informatizzato. Perché? La possibilità è certo quella della smart card attraverso il lettore e il lettore entro l'anno verrà reso disponibile in forma gratuita a tutti, ma altra modalità per via telematica è di accedere via internet attraverso una password, quindi non serve necessariamente il lettore, non serve necessariamente la smart card, proprio perché Benissimo. Dovevamo avviare una cosa completamente nuova, completamente e riteniamo nuova, innovativa, certo. Abbiamo dato queste due possibilità. E la password dove si trova, la dottor Macchi? La password, il Massignan la chiede alla Direzione Generale di Sanità e gli è già stata data, alla password al Massignan. Ecco, vabbè, ma noi... La credenziale gli è già stata Benissimo. Data in quelle lettere di questo risposta. Vale tanto. Quindi, se lui vuole, a titolo rapidamente, gratuitamente, può accedere senza lettore CD ad fare quello che fino al 31 dicembre doveva recarsi in posta, fare la coda, andare all'ASL. No, ma è chiarissimo. Allora, quindi, diciamo così, che questo vale per tutti i professionisti e tutti i committenti di lavori edili o di comunque ingegneria civile in Lombardia. Dal 1 gennaio del 2010 le comunicazioni avvengono per via telematica, richiedendo o una password password alle ASL, oppure dovete avere un po' di pazienza che il lettore verrà messo a disposizione gratuitamente, speriamo in tempi brevi. Qualche problema, ovviamente, di intralcio c'è stato, anche l'abbiamo sentito dalla denuncia del nostro geometra radioascoltatore. Comunque speriamo che la situazione vada per il meglio. Se ci saranno intoppi qui o altrove, vi prego di segnalarli. Grazie al nostro geometra e grazie al dottor Marchi per la cortesia con cui ha spiegato le cose. Io ringrazio in regia Valeria Bernardi, in studio Elisabetta Fusconi, e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata.